accusavo dell'omicidio di William, di Justin e di Clairvin. A volte imploravo coloro che mi assistevano ad aiutarmi a distruggere il demone da cui ero tormentato. Altre volte sentivo le dita del mostro che già mi stringevano il collo e urlavo di angoscia e di terrore. Fortunatamente, poiché mi esprimevo nella mia lingua natia, l'unico a capirmi era Mr. Kirwin, il magistrato. Tuttavia i miei gesti e le mie grida bastavano a spaventare le altre persone presenti. Perché non morì allora? Perché io, l'uomo più miserabile che mai fossi esistito, non sprofondai nell'oblio e nell'eterno riposo? Io ero condannato a vivere. E nel giro di un paio di mesi mi ritrovai, come svegliandomi da un sogno, in una prigione disteso su una squallida brana, circondato da carcerieri, secondini, catenacci e tutto il triste apparato di una cella. Era mattina, mi ricordo, quando ripresi coscienza. Avevo dimenticato i dettagli di quanto era accaduto. Sentivo solo che una grande sciagura mi era piombata addosso, ma quando mi guardai attorno e vidi le sbarre alle finestre e lo squallore della stanza in cui mi trovavo, mi balenò di nuovo tutto alla memoria e gemetti amaramente. Questo suono disturbò una donna anziana che dormiva su una sedia accanto a me. I lineamenti del suo viso erano duri e scostanti, tipici di chi ha fatto l'abitudine a guardare in faccia la miseria e non ne prova compassione. Mi parlava in inglese, con un tono che esprimeva la sua completa indifferenza. Riconobbi la sua voce. Era una di quelle che avevo sentito durante la mia malattia. «Vi sentite meglio, signore?» risposi nella stessa lingua. «Mi sembra di sì, ma se tutto questo è vero, se non me lo sono sognato, mi addolora essere ancora vivo per provare questa infelicità e questo orrore. Quanto a questo, se dite del gentiluomo che avete ammazzato, penso che sarebbe meglio per voi essere morto, perché immagino che ve la passerete piuttosto male. Comunque sarete impiccato all'aprirsi della prossima sessione. Ad ogni modo, non sono affari miei. Io sono stata mandata ad assistervi o a farvi guarire. Farò il mio dovere coscienziosamente, come sarebbe bene facessero tutti.» Distolsi lo sguardo con ribrezzo da quella donna che poteva fare un discorso così insensibile a una persona appena salvata dal baratro della morte. Ma mi sentivo debole e non riuscivo a riflettere su quanto era accaduto. Come in un sogno mi scorse davanti tutta la mia vita. A volte mi chiedevo se fosse proprio tutto vero, perché non si presentava mai alla mia mente con l'evidenza della realtà. Quando le immagini che mi attraversavano si fecero più distinte, mi venne la febbre. Mi sentivo oppresso dall'oscurità. Non avevo accanto a me nessuno che mi desse il conforto di una voce affettuosa, nessuno che mi tendesse la mano. Venne il dottore, prescrisse le medicine e la vecchia me le preparò, ma il primo mostrava il più completo disinteresse e la seconda aveva impresso sul volto il marchio della brutalità. A chi poteva importare del destino di un assassino se non al boia? Furono queste le mie prime considerazioni, ma presto venni a sapere che Mr. Kirwin mi aveva dimostrato un'estrema gentilezza. Aveva chiesto che venisse preparata per me la stanza migliore della prigione. E la migliore era davvero squallida. E si era lui stesso interessato a procurarmi un dottore e un'infermiera. Certo, veniva a trovarmi molto raramente, per quanto desiderasse ardentemente alleviare le sofferenze di qualunque creatura umana. Non gradiva assistere ai tormenti e alle penose farneticazioni di un assassino. Veniva dunque a volte a controllare che non venissi trascurato, ma le sue visite erano brevi e con lunghi intervalli di tempo. Un giorno, quando ormai mi stavo gradualmente rimettendo, ero seduto su una sedia, con gli occhi socchiusi e le gote livide di un morto in preda alla tristezza e allo sconforto. Spesso tornavo a pensare che avrei fatto meglio a cercare la morte piuttosto che restare tristamente imprigionato solo per poi essere rilasciato in un mondo colmo di sventura. Ero assorto in questi pensieri, quando la porta della mia cella si aprì ed entrò Mr. Kirwin, il magistrato. Il suo volto esprimeva simpatia e compassione. Portò una sedia e mi parlò in francese. Avrei pensato, giovanotto, che la presenza di vostro padre... Mio padre! E in ogni tratto del mio volto, in ogni muscolo, l'angoscia si mutò in piacere. Davvero? È venuto mio padre. Ma quanto mi vuole bene? Quanto? Quanto è buono? Ma dov'è? Dov'è? E perché non corre da me? A quel punto entrò mio padre. Gli tesi la mano ed esclamai: è bene dunque. Ed Elisa? Ed Ernest? Mio padre si rese presto conto che nella cella di una prigione non può allargare e albergare la letizia. In che posto sei finito, figlio mio? Sei messo in viaggio in cerca di felicità, ma sembra che un fatto cattivo ti perseguiti e il povero Clerval... Udire il nome del mio sfortunato amico ucciso mi provocò un'agitazione troppo forte per le mie deboli condizioni e scoppiai a piangere. Padre mio, è proprio così, un orribile destino incombe su di me ed evidentemente devo vivere perché si compia tutto, altrimenti sarei morto di sicuro sulla bara di Henri. Entrò Mr. Kirby e ribadì che le mie forze non andavano messe troppo alla prova e sarebbero scemate, ma l'apparizione di mio fu per me come quella del mio angelo custode e gradualmente recuperai la salute, ahimè, perché si sforzarono di preservare una vita così meschina e da me detestata, sicuramente affinché il mio destino giungesse a compimento ed il momento adesso si avvicina. Si avvicinava il periodo dell'assise, il Grand Jury respinse l'accusa essendo stato provato che io ero nelle isole Orcadi al momento in cui venne rinvenuto il corpo del mio amico e un paio di settimane dopo la mia assoluzione venni scarcerato. Ricordo che uscendo di prigione sentì un uomo dire: sarà pure innocente dell'omicidio, ma di sicuro ha la coscienza sporca. Queste parole mi toccarono. La coscienza sporca. Sì, era proprio così. William, Justin, Clerval erano morti a causa delle mie infernali macchinazioni. E quale morte, mi chiedevo, quale morte porrà fine alla tragedia? Padre mio, non rimanete in questo paese maledetto, portatemi dove io possa dimenticare me stesso, la mia esistenza e il mondo intero. Mio padre acconsentì docilmente al mio desiderio e dopo aver salutato Mr. Kirby ci affrettammo a raggiungere Dublino. Era mezzanotte. Benedicevo l'oscurità che nascondeva l'Irlanda alla mia vista. E il cuore mi batteva di una gioia febbrile se pensavo che di lì a poco avrei rivisto Ginevra. Il passato ora aveva i colori di un incubo spaventoso, eppure la nave dove mi trovavo, il vento che mi portava via dalle odiate rive d'Irlanda e il mare che mi circondava mi dichiaravano con fin troppa veemenza che non ero stato ingannato da un sogno. Il mio amico, il mio più caro compagno, Clerval, era caduto preda del mostro che io avevo creato e dunque anche di me. Da quando mi era passata la febbre, avevo preso l'abitudine di prendere ogni sera una piccola quantità di laudano, perché solo grazie a questa droga riuscivo a ottenere il riposo necessario a preservare la vita. Oppresso come ero adesso dal ricordo delle mie numerose disgrazie, stavolta ne presi una dose doppia. Questa mattina di una specie di incubo sentivo la presa del demone sul mio collo e non riuscivo a liberarmene, e nelle mie orecchie risuonavano gemiti e grida. Mio padre, che vegliava su di me, avvertendo la mia inquietudine, mi svegliò e mi mostrò il porto di Holyhead, dove stavamo entrando. Avevamo deciso di non andare a Londra, ma di attraversare il paese fino a Portsmouth, da cui ci saremmo imbarcati per Le Havre. Non sopportavo l'idea di rivedere quei posti, ma mi ero goduto qualche momento di tranquillità in compagnia lì del mio amato Clerval. Quanto a mio padre, i suoi desideri e i suoi sforzi erano tutti rivolti a rivedermi di nuovo in salute e sereno. Ahimè, padre mio, a quanto poco sapete di me. Justine, la povera, l'infelice, la sfortunata Justine, che era innocente quanto me e morta sotto lo stesso capo di accusa, e ne sono io la causa. Io e William, Justine, Henri, sono tutti morti per mano mia. Evitavo di dare spiegazioni e mantenevo il silenzio sull'essere abominevole che avevo creato. Pensavo che sarei stato preso per matto, anche se avrei dato qualunque cosa pur di continuare quel mio fatale segreto. In questa occasione mio padre disse con un'espressione di stupore: ma che cosa dici? Ma sei impazzito? Ma caro figlio mio, ti supplico di non fare mai più una simile affermazione. Non sono pazzo. Il sole e il cielo, che hanno veduto le mie azioni, possono testimoniare che io dico il vero. Io sono l'assassino di quelle vittime innocenti. Loro sono morti per le mie macchinazioni. Con il passare del tempo divenni un po' più calmo. Nel mio cuore regnava la tristezza, ma non parlavo più in quel modo incoerente dei crimini da me commessi. Giungemmo a Le Havre l'8 di maggio e da lì subito partimmo per Parigi. In questa città ricevetti la seguente lettera di Elisabeth. A Victor Frankenstein, carissimo amico, mi ha fatto un estremo piacere ricevere una lettera da mio zio, da Parigi. Non siete più a una distanza insormontabile e posso sperare di rivederti in meno di 15 giorni. Povero cugino mio, quanto devi aver sofferto. E tuttavia spero di scorgere pace sul tuo viso e di scoprire che il tuo cuore non sia del tutto scevro di conforto e di tranquillità. Non ti disturberei in un momento come questo, così gravoso, per le sciagure che hai passato, se non fosse che una conversazione avuta con mio zio prima della partenza rende necessaria una qualche spiegazione prima che ci incontriamo. Spiegazione, potresti dire tu, ma che mai dovrà spiegarmi Elizabeth? Beh, se questa è la tua reazione, allora le mie domande hanno trovato risposta e non devo fare altro che firmarmi la tua affezionatissima cugina. Ma se sei distante da me ed è possibile che questo chiarimento tu lo tema e al tempo stesso lo desideri, Victor, tu sai bene che il progetto della nostra unione è stato sempre accarezzato dai tuoi genitori fin dalla nostra infanzia. Carissimo, carissimo, carissimo Victor, rispondimi, ti prego, in nome della nostra reciproca felicità. Rispondimi in modo sincero. Sei innamorato di un altro? Io confesso, cugino, di amarti e che nei miei eterei sogni sul futuro sei sempre stato il mio fedele amico e compagno, ma Victor, desidero la tua felicità quanto la mia e ti dichiaro che il nostro matrimonio mi renderebbe infelice per sempre se non fosse dettato da una tua libera scelta. E piango al desiderio e al pensiero che tu, già provato come sei dalle sciagure più crudeli, possa soffocare in nome dell'onore ogni speranza di amore e felicità che solo potrebbero ricondurti a te stesso. Sii felice, amico mio, sii felice, e se mi obbedirai a questa unica richiesta, stai sicuro che niente al mondo avrà il potere di interrompere la mia tranquillità. Non permettere a questa lettera di disturbarti, non rispondere domani e nemmeno dopodomani, non rispondere fino a quando non sarai tornato, se ti dovesse dare tempo. E se quando ci incontreremo vedrò anche un solo sorriso sulle tue labbra, io non chiederò altra felicità. eternamente mio, eternamente tuo, eternamente nostro. Elizabeth Lavenza, Ginevra, 18 maggio 1700. Questa lettera mi ricordò ciò che avevo dimenticato, la minaccia del demone. Sarò con te la tua prima notte di nozze. Questa era la mia condanna quella notte. Quella notte quel demonio avrebbe usato ogni arte per distruggermi e strapparmi da quell'accenno di felicità che prometteva una parziale consolazione per le mie sofferenze. Dolce e beniamata Elizabeth, rileggevo la lettera. Temo, mia amata ragazza, le scrisse, che a noi rimanga ben poca letizia su questa terra, ma tutta quella che potrò un giorno gustare è concentrata in te. Spazza via le tue inutili paure, soltanto a te io consacro la mia vita e ogni mio impegno ad essere contento. Un segreto. Ho un segreto terribile. Quando te lo rivelerò, tutto il tuo corpo raggelerà d'orrore e a quel punto, lungi dall'essere sorpresa per la mia disperazione, ti chiederai soltanto come abbia potuto sopravvivere. Ti confiderò questa storia di tormento e di orrore il giorno seguente al nostro matrimonio, perché, mia dolce cugina, tra noi ci deve essere totale confidenza. Fino ad allora, però, ti prego, non parlarne e non alludervi mai. Questa è la mia profonda supplica e so che la esaudirà. Poco dopo il mio arrivo, mio padre parlò dell'imminente matrimonio con mia cugina. Io rimasi in silenzio. Hai dunque qualche altro legame? Nessuno al mondo. Io amo Elizabeth. Fissiamo il giorno in cui mi consacrerò nella vita e nella morte alla felicità di mia cugina. E me mi affiorava il ricordo della minaccia. Sarò con te la tua prima notte di nozze. Ma la morte per me non era un male in confronto alla perdita di Elizabeth, e dunque io, con volto soddisfatto e persino allegro, concordai con mio padre che, se mia cugina consentiva, la cerimonia avrebbe avuto luogo di lì a 10 giorni. 10 giorni, buon Dio! Per solo un istante avessi pensato a quale potesse essere l'infernale intenzione del mio diabolico avversario. Mi sarei costretto a un esilio perpetuo piuttosto che a consentire a questo sciagurato matrimonio. L'avvicinarsi della data del nostro matrimonio, fosse codardia o un'intuizione profetica, mi sentivo lontano in cuore. E però mascheravo i miei sentimenti dietro un'apparente ilarità che portò il sorriso e la gioia sul volto di mio padre. Si fecero i preparativi. Io tenevo rinchiusa nel mio cuore, come meglio potevo, l'ansia di cui ero preda. Sarò con te la tua prima notte di nozze. E partecipavo con apparente scrupolosità ai piani di mio padre. Venne comprata una casa per noi, vicino Colonia, restando tuttavia abbastanza vicini a Ginevra per poter far visita ogni giorno a mio padre. Nel frattempo presi ogni precauzione per proteggere la mia persona. Portavo sempre con me pistole e pugnali. Così facendo mi sentivo un po' più tranquillo. Elizabeth sembrava felice e il mio comportamento tranquillo contribuiva molto a rasserenarla. Ma il giorno, quel giorno in cui si sarebbero realizzati i miei desideri e il mio destino, lei era malinconica, pervasa da un cattivo presentimento, forse. O forse pensava anche al terribile segreto che avevo promesso di rivelarle il giorno seguente. Celebrata la cerimonia, un numeroso gruppo di persone si radunò a casa di mio padre, mentre era stato deciso che Elizabeth ed io avremmo passato la notte a Lyon. Thank you. era una bella giornata e il vento favorevole. Decidemmo di andare via. Furono gli ultimi momenti della mia vita in cui provai il sentimento della felicità. Presi la mano di Elizabeth. Sì, triste. Se tu sapessi quello che io ho passato e quello che potrei dovere ancora sopportare, proveresti a farmi gustare la quiete e l'assenza di disperazione che questa giornata almeno mi permette di provare. Sii felice, mio caro Victor. Spero che non vi sia nulla che ti preoccupi. In questo modo Elizabeth provava a distogliere i suoi pensieri e i miei da ogni considerazione su argomenti più tristi. Il sole si fece più basso. Il vento, che fino a lì ci aveva sospinti con straordinaria rapidità, al tramonto divenne una brezza leggera. L'aria dolce appena increspava le onde e provocava un piacevole movimento tra gli alberi mentre ci avvicinammo alla riva. Quando approdammo, il sole scomparve dietro l'orizzonte e quando misi i piedi a terra sentì risvegliarsi le mie preoccupazioni, le mie paure che mi avrebbero da lì a poco afferrato. Sarò con te la tua prima notte di nozze, per non lasciarmi. Quando approdammo, erano le 8. Ci ritirammo in albergo per contemplare il delizioso spettacolo di acqua, bosco e montagna. Improvvisamente scorsò un forte temporale. Ero stato calmo durante tutto il giorno, ma appena la notte oscurò la forma delle cose, nella mia mente si destarono migliaia di paure. Ero in ansia, ero in guardia. Per un po' Elizabeth osservò la mia agitazione in timido e costernato silenzio e infine disse: "Papi, che cosa ti agita? Di che cosa hai paura?" "Taci, taci, taci, taci, taci, amore mio, taci. Lascia passare questa notte e tutto sarà a posto, tutto, ma questa notte è tremenda, è tremenda, è tremenda." Passai in questo stato d'animo quando improvvisamente pensai a quanto tremendo sarebbe stato per mia moglie il combattimento che mi aspettavo da un momento all'altro e dunque la scongiurai. Scongiurai, sì, ardentemente, si ritirasse e lasciò. E io continuai per un po' a camminare su e giù per i corridoi dell'edificio. Non scovai alcuna traccia di lui. Quando udì un grido acuto e terribile veniva dalla stanza dove si era ritirata Elizabeth, appena lo udì, tutta la verità mi balenò alla mente. Lei era lì, priva di vita, immobile, riversa sul letto con la testa pendente, il viso pallido, i lineamenti alterati, coperti in parte dai capelli. Bambino, perché sono morta? Perché sono qui? A raccontare qualcuno. Potevo vedere tutto questo e sopravvivere. Ahimè, la vita è ostinata e si attacca più stretta là dove è più detestata. Io fossi conoscenza solo per un momento. Quando rindenni, mi trovai circondato dalla gente dell'albergo. I loro volti esprimevano un trafelato orrore. Ma l'orrore degli altri è solamente una parodia del sentimento che opprimeva me. Gettai verso di lei e l'abbracciai con passione, ma la mortale inerzia e le membra gelate di mia moglie mi dissero che ciò che ora avevo tra le braccia non era più la mia... era Elizabeth che avevo amato. Sul suo collo era il marchio omicida della stretta del vento. Ancora fino su di lei mi capitò di alzare lo sguardo provando un indescrivibile orrore, vidi alla finestra spalancata la figura più orrida e abborrita sul volto del mostro. Era un ghigno. Sarò con te la tua prima notte di... Sembrava beffarsi di me. Sparai, sparai, sparai, sparai. Lui riuscì a schivare il colpo e correndo con la rapidità del lampo si gettò nel lago. Indicai il punto dove era scomparso e ne seguimmo le tracce con le barche. Ma invano. Passate molte ore. Facemmo ritorno. Abbandonata ogni speranza, la maggior parte dei miei compagni era convinta che si trattasse di una figura evocata dalla mia fantasia. Mi stessi su me, in queste condizioni. Semi incosciente dell'accaduto, vagavo con gli occhi per la stanza come cercassi qualcosa che avevo perduto. Elisa. Il mio sconcerto mi avvolgeva come una nube di orrore ed incredulità. La morte di Willis, l'esecuzione di Jasper, l'omicidio di Clerval e infine di... In quel momento non sapevo neanche se i miei unici affetti rimasti fossero in salvo dalla malvagità. Poteva essere che proprio in quel momento mio padre si stesse contorcendo nella stretta della sua morsa. Questa idea mi fece rabbrividire e mi riportò all'azione. Balzai in piedi, deciso di tornare a Ginevra il più presto possibile. Giunsi a Ginevra. Mio padre era ancora vivo, ma non resse le notizie per età. Mi sembra di vederlo adesso, quel grande e venerabile vecchio, gli occhi persi nel vuoto, privati di gioia e di bellezza. Maledetto, maledetto, maledetto il demone che ricoprì di strazio i suoi capelli grigi, condannandolo a consumarsi di dolore. Non poté mio padre sopravvivere agli orrori che si erano accumulati intorno a lui. Che ne fu allora di me? Non lo so. Persi ogni sensibilità. Provavo solo un'oppressione di catene e di terrore. Le condizioni in cui mi trovavo erano quelle di cui qualunque pensiero sprofondava nel nulla e si perdeva. Ero spronato dalla furia. Solo l'idea di vendicarmi dava forza a me stesso. La mia prima decisione fu quella di andare via da Ginevra per sempre. Il mio sforzo principale fu quello di raccogliere qualche indirizzo che mi mettesse sulle tracce del mio diabolico nemico. Al calare della notte mi ritrovai all'ingresso del cimitero, dove riposavano Vini, mio padre e... Regnava il silenzio, se non per le foglie degli alberi che il vento scuoteva dolcemente. Le anime dei morti sembravano aleggiare tutto intorno. Il profondo dolore che questa scena aveva suscitato in me si mutò rapidamente in rabbia e disperazione. Mi inginocchiai sull'erba, baciai la terra per il ruolo sacro su cui mi inginocchio, per le ombre che vagano intorno a me, per il profondo ed eterno dolore che provo. Io giuro a te, oh notte, io giuro che inseguirò il demone che causò questo dolore fino a che o lui o io periremo in un mortale conflitto, e invoco voi, spiriti dei morti, per aiutarmi a indirizzarmi sulla mia opera. Sono soddisfatto, disgraziato. vecchio, miserabile, sei risoluto a vivere ed io ne sono soddisfatto. Mi lanciai verso il punto da cui veniva quel suono, ma il demone sfuggì alla mia presa. Tutto un tratto per il grande disco di mare a illuminare la sua spaventosa e distorta figura che fuggiva a velocità sovrumana. Mi mise ad inseguirlo e questa è stata la mia missione per tutti i mesi a questa parte. Quali fossero i sentimenti di colui che inseguiva, io non posso sapere. A volte in effetti lasciava delle iscrizioni sulle cortecce degli alberi o incise nella pietra, che mi guidavano e istigavano la mia furia. Il mio regno non è ancora finito e tu vivi, e il mio potere è completo. Seguimi, seguimi. Mi dirigo verso gli eterni ghiacciai del nord, dove patirai il freddo e il gelo. Qua vicino, se non ti attardi, troverai una lepre. Mangia, ristorati, amico mio. Avanti, avanti, mio nemico. Dobbiamo ancora lottare per le nostre vite, ma prima che arrivi quel momento, devi ancora sopportare molte ore difficili e tristi. Prepara, amico. Questo è solo l'inizio delle tue fatiche. Avvolgiti di pelliccia e procurati del cibo. Stiamo per intraprendere un viaggio in cui il mio odio eterno verrà pagato dalle tue sofferenze. Queste parole, quest'ardo, rinvigorirono il mio coraggio e la mia perseveranza. Ero deciso a non arrendermi a nulla e, invocando l'aiuto del cielo, precedetti con incrollabile fervore, attraversai immensi deserti fino a che mi apparve in lontananza, come l'estremo limite dell'orizzonte, l'oceano. I greci piangevano di gioia quando vedevano il Mediterraneo dalle colline dell'Asia, esultando perché segnava la fine delle loro fatiche. Io non piansi, mi inginocchiai e di tutto il cuore ringraziai il mio spirito guida per avermi condotto sano e salvo al luogo dove speravo di incontrare e sfidare corpo a corpo il mio avversario, nonostante la sua sfida. Non saprei dire quanti giorni sono passati da allora, ma ho sopportato patimenti che solo il costante desiderio di un giusto castigo che mi bruciava in petto poteva permettermi di sostenere. Ma proprio a questo punto, proprio ora, quando mi parve di avere quasi in pugno il mio nemico, le mie speranze si smorzarono di colpo e persi del tutto le sue tracce come mai prima di allora. Si svolse tutto molto rapidamente, in pochi minuti. Un mare agitato ondeggiava tra me e il mio nemico, mentre io andavo alla deriva su un frammento di lastra di ghiaccio che continuava a sciogliersi. Stavo per soccombere al peso dell'angoscia quando vidi la vostra imbarcazione all'ancora, che mi recava speranza di soccorso e di vita. Mi avete preso a bordo, caro Walton, quando avevo esaurito ogni vigore. Dovrò morire io e lui restare in vita. Vi ricordate quando vi dissi? Se così fosse, giuratemi, Walton, che lui non la farà franca, che voi lo cercherete e che soddisferete la mia vendetta con la sua morte. E tuttavia, quando sarò morto, se lui dovesse comparire, se i ministri della vendetta vi conducessero a lui, giuratemi che non trionferà sul cumulo dei miei dolori e che non vivrà per rendere un altro infelice come me. Walton, non mi fidate di lui. La sua anima è infernale quanto il suo aspetto. Non gli prestate ascolto. Affondate la vostra spada nel suo cuore e io vi sarò vicino e guiderò l'acciaio. Agosto 26, 1700, alla signora Sabine. Ora che hai letto questa storia così strana e terrificante, Margaret, adorata sorella mia, non ti senti gelare il sangue per l'orrore? A volte Victor, in preda ad improvvisa angoscia, non riusciva a continuare il suo racconto. Altre, con voce rotta eppure penetrante, pronunciava con difficoltà le parole così cariche di quell'angoscia. Il suo sguardo puro e bello ora si accendeva d'indignazione, ora si spegneva sotto il peso del dolore. Mia cara Margaret, ho cercato altre volte di ottenere da Frankenstein i particolari relativi alla realizzazione della sua creatura, ma su questo punto lui è sempre stato impenetrabile. Siete pazzo? Eh? Dove vi porta la vostra insensata curiosità? Vorreste anche voi creare un diabolico nemico per voi e per il mondo? Dove volete arrivare con le vostre domande? Tacete, tacete Walton, tacete, tacete Frankenstein. Si accorse che avevo preso appunti sulla sua storia. Lui stesso li corresse e li integrò soprattutto nel dare vivacità e spirito alle conversazioni avute con il suo nemico. Così è passata una settimana, ascoltando la storia più strana che l'immaginazione mai concepì. Volevo dargli conforto, ma poteva forse un uomo esortare a vivere un altro uomo così infinitamente miserabile, così privo di ogni speranza di consolazione? Eppure c'era qualcosa che gli dava conforto. Quando sognava di conversare con i suoi cari, non credeva che fossero creazioni della sua fantasia, ma esseri reali che lo venivano a trovare dalle regioni di un mondo remoto. Tuo affezionato fratello, Robert Wood. La salute di Franco è peggiorata ogni giorno. La sua ora era rovinata. Sedevo al suo capezzale, aveva gli occhi chiusi e pensavo dormisse, ma a un certo punto mi chiamò con voce flebile, pregandomi di avvicinarmi. Mi disse: la forza su cui facevo sento che presto morirò e lui, il mio nemico, il mio persecutore, dovrebbe ancora essere vivo. Questi ultimi giorni ho spesi a esaminare la mia passata condotta e non la trovo dispiacevole. In un eccesso di follia entusiasta io ho creato una creatura raziocinante e questo mi impegnava ad assicurargli, per quanto mi fosse possibile, felicità e benessere. Era il mio dovere. Ma ve n'era un altro, superiore a questo. I miei obblighi nei confronti dei miei simili erano ciò a cui dovevo prestare maggiore attenzione, perché era in gioco una più grande dose di felicità o di sofferenza. Questa prospettiva mi ha spinto a rifiutare e ho fatto bene di creare una compagna per lui che ha dimostrato una cattiveria e un egoismo senza pari nel suo periodo. Ha sterminato in Italia e non so se questa sua sete di vendetta avrà mai finito. Infelice come deve morire, in modo da non rendere infelice nessun altro. Avevo io il dovere di distruggerlo, ma ho fallito, non mi azzardo a richiedervi di fare quello che io ritengo giusto, perché potrei ancora essere fuorviato dalla passione. Questa ora in cui attendo che da un momento all'altro giunga la mia liberazione, è l'unica ora felice che io abbia provato in tanti anni. Le figure dei miei amati difunti aleggiano davanti a me e mi proteggono verso il loro abbraccio. Addio Walt. Addio, cercate la felicità in una vita tranquilla, rifuggite dall'ambizione, pure se fosse quella apparentemente necessaria e innocente di distinguervi nel campo della scienza e delle scoperte. Perché vi dico questo? Io mi sono bruciata al fuoco delle mie speranze, ma un altro potrebbe realizzare il destino. Mezz'ora dopo tentò di riprendere a parlare, ma non ci riuscì. Strinse appena la mia mano e i suoi occhi si chiusero per sempre, mentre il riflesso di un dolce sorriso gli sfiorì sulle labbra. Che altro aggiungere, Margaret, sulla prematura scomparsa di questo nobile spirito? Ma che cosa sono? Che cosa sono questi rumori a mezzanotte? E vi è il suono di una voce. Sembra umana, ma è molto rauca. Proviene dalla cabina dove ancora giacciono le spoglie di Frankenstein. dentro. China su di me, una figura che non so descrivere. Il suo corpo piegato sul feretro, il suo volto nascosto dalle lunghe ciocche dei suoi capelli arruffati, una mano si protendeva enorme. Quando mio Dio accenne, interruppe le sue esclamazioni di strazio e di orrore e si lanciò verso la finestra. Io non ho mai visto niente di così orribile come la sua faccia, di una bruttezza ripugnante e spaventosa. Senza volerlo, ho chiuso gli occhi e gli ho ingiunto gli scherzi. Si fermò, rivolgendomi uno sguardo stupido. Poi di nuovo si è voltato verso il corpo senza vita del suo creatore. Oh, Frankenstein, essere generoso e pieno di abnegazione, a che serve che adesso io ti chieda perdono? Io che irrimediabilmente ti ho distrutto, distruggendo tutti coloro che amavi. Sua voce era come soffocata e il mio primo impulso è rimasto sospeso in un misto di curiosità e di compassione. Sono avvicinato a questo essere immane, ma non ho osato alzare lo sguardo perché vi era qualcosa di troppo spaventoso e ultraterreno nella sua bruttezza. Stai sognando, Vicky? Pensi che io fossi impenetrabile all'angoscia e al rimorso? Tu non hai sofferto più di me nell'eseguire l'impresa, Victor, neanche la decimillesima parte del mio tormento durante gli estenuanti dettagli della sua esecuzione. Mi spingeva uno spaventoso egoismo, mentre il cuore, Victor, il mio cuore si avvelenava di rimorso. Credi che i gemiti di Clerval sono stati musica per le mie orecchie? Il mio cuore era fatto per provare amore e simpatia quando il dolore ne ha deformato in natura la sua natura, piegandolo al crimine e all'odio, alla violenza. E questa trasformazione è stata tutta una tortura, perché tu, Vittorio, io non lo puoi neanche immaginare, provavo pietà per Frankenstein. Provavo pietà per Frankenstein, il mio creatore, e la pietà si trasformava in orrore per me stessa. Ma quando ho scoperto che tu, l'autore della mia esistenza e al tempo stesso dei suoi indicibili tormenti, ti azzardavi a nutrire speranze di felicità, allora l'invidia imponente mi ha provocato un'insaziabile sete di vendetta. Ricordai la mia minaccia. Sarò con te la prima notte, forse. E decisi che andava eseguita lì. Sapevo che mi sarei sottoposta a una tortura mortale, ma ero lo schiavo. Ero lo schiavo, non ero il padrone. Di un impulso che detestavo, ma a cui non potevo disobbedire. Eppure quando morì, avevo bandito ogni sentimento e represso ogni angoscia per dare libero sfogo agli eccessi della mia disperazione. Victor, da quel momento il male è diventato il bene. Al punto in cui mi ero spinta, non avevo altra scelta se non quella di adattare la mia natura a un elemento decretato dalla mia volontà. Ora è finita. Tu sei la mia ultima vita. Cerco compassione nella mia infelicità, né mai potrò trovare comprensione quando un tempo la cercavo era per condividere il mio amore per la virtù, il senso di gioia e di amore da cui tutto il mio essere straripava. Victor, ora che la virtù è soltanto un'ombra, la felicità e l'amore si sono trasformati in una disperazione amara e rivoltante. Che cosa potrei condividere? Contento di soffrire in solitudine, di finché dureranno le mie sofferenze. E quando sarò morto, mi sarà bene di essere ricordato come errore. Quando ripenso allo spaventoso catalogo dei miei misfatti, e non riesco a credere di essere lo stesso individuo di cui i pensieri un tempo erano pieni di visioni sublimi e trascendenti della bellezza e sovranità del bene. Eppure così l'angelo caduto diventa un demone maligno. Tu mi hai odiato, ma il tuo disprezzo non può eguagliare quello che io provo per me. Guardo le mani che hanno eseguito, rifletto sul cuore che ha concepito l'idea e bramo il momento in cui i miei occhi non vedranno più le mie mani e quell'idea non mi ossessionerà più. Non temere che io mi faccia strumento di futuri misfatti, la mia opera è quasi completa, non c'è bisogno di nessun'altra morte per chiudere il ciclo della mia esistenza. Serve solo la mia. Moriremo. Non sentiremo più lo strazio che ci ha consumato. Non saremo più preda di passioni insoddisfatte o inestinguibili. È morto chi mi ha messo al mondo e quando anche io non ci sarò più, ben presto svanirà il ricordo di entrambi. Non vedremo più il sole o le stelle, non sentiremo il tocco del vento sulle gote, non vi sarà più luce, sentimenti, sensi. E in questa condizione, amico mio, troveremo la nostra felicità. Anni fa, quando mi si dischiusero per la prima volta le immagini di questo mondo, quando sentii il confortante calore dell'estate e udii lo stormire delle fronde, il cinguettio degli uccelli, e tutto questo era lì per me, avrei pianto al pensiero di dover morire. Adesso la mia unica consolazione. Corrotto dal crimine, lacerato dal più amaro rimorso, dove potrei trovare pace se non nella morte? Addio. Ti lascio e con te l'ultimo uomo che i miei occhi avranno visto. Addio, addio, Victor Frankenstein. Se tu fossi ancora lì e ancora nutrissi un desiderio di vendetta contro di me, io soddisfaresti, io farei che tu soddisfassi, io lo soddisferesti meglio lasciandomi in vita che con la mia morte. Ma così non è stato, tu hai cercato di estinguermi affinché non causassi altro dolore. E quanto tu fossi distrutto, il mio strazio era maggiore del tuo. E i penetranti aculei del rimorso non cesseranno di bruciare le mie ferite finché la morte non li chiuderà per sempre. Poi la luce dell'incendio si dissolverà e le mie ceneri verranno spazzate dal vento, dal mare. Il mio spirito riposerà in pace. O se dovesse continuare a pensare, di certo non penserà più a questa nave. Così dicendo, saltò giù dalla finestra. E scomparve nel buio.